Non vedo un cazzo proprio. Bene, buonasera a tutti, non vi vedo, c'ho questa caratteristica che non vedo. Ma non vedo perché, non perché la luce c'è, va benissimo, insomma, non sono problemi tecnici, è che mi si appannano gli occhiali quando parlo, che è una cosa non bellissima per chi deve leggere. Dici, ma perché? Vabbè, lascia, fatevi gli affari vostri. Ormai sono 11 anni che scrivo cose per il cinema. Io da colombiano venuto qua a Roma, ho imparato questa lingua e niente, c'è gente che mi ringrazia perché riesce a capire dei film che altrimenti senza le mie spiegazioni non avrebbero senso. Ve ne leggo alcune. Questo è l'ultimo film del... Che è questo? C'è un problema. Il microfono. Del presidente della giuria di Cannes di quest'anno. Habemus Papams. Osteria del Vaticano. Er Papa è annato contro mano. Che infatti, a un certo momento, in quel piccolo staterello che ci avevamo la grandissima pazienza di ospità, succede che devono fare il Papa nuovo perché si vede che quello vecchio era scaduto. Allora si mettono tutti dentro uno stanzone, tutti vestiti di rosso, e scelgono uno che però a lui non gli va. E dice: no, io non posso fare il Papa, non ci riesco. E poi, ma scusate, ma che nome scelgo? Enzo, Kevin, Duccio, Miralen, Juan, Gino, Manlio, Arvaro, Sean, Paolo Roberto II. E allora, per fargli cambiare idea, chiamano uno psicologo, solo che il Papa Nuovo scappa e va all'estero, a Roma. Nel mentre che lo psicologo a un certo momento dice: voi ve credevate che era uno psicologo, ma io in realtà so Culio Velasco e mo so cazzi vostra, ma che è davvero? Ve voglio vedere con l'occhi da tigre che mi sdrumate il pallone. E infatti se mettono a giocare a pallavolo, nel mentre che il Papa senza nome va a teatro, solo che tipo me sa che era un po' una rottura dei coglioni, che infatti s'addorme. E infatti lo piano per una orecchia e lo riportano a casa. Allora lui s'affaccia a Piazza San Pietro e dice: a regà, vi dico solo sta cosa, a me manderebbe pure, e mi rendo conto pure che essere un pellegrino è un mestiere difficile, che devi stare sotto al sole per ore a cantare delle canzoni de merda. Ma io non posso proprio essere Papa, non ci riesco, non posso, perché la verità vera è che il bianco ingrassa una cifra. Mio cugino una volta è entrato in un conclave religioso, Regina Celi. Oh, siccome mano a mano che vado avanti a scrivere queste cose, e ci sono anche nuove generazioni che vogliono spiegazioni, e mi è successo che ho dovuto spiegare film a bambini anche piccoli a cui piacciono cartoni animati, e quindi ho dovuto recitare anche i capolavori della Disney come gli Aristogatti. Bello, vabbè. Che infatti c'è sta una vecchia stronza impaccata dei sordi che sta ai carci di rigore che ha morte. Che infatti fa il testamento e invece di dà i sordi al maggiordomio che si è fatto un culo così tutta la vita a cambiargli il pannolone, invece dà tutto ai gatti de merda che se teneva in casa. Allora il maggiordomo sbrocca glielo del culo giustamente e se va a toglie dalle palle i micetti. E prima li butta per strada, ma poi sti gatti zozzoni infami tornano. E allora sto maggiordomio si incazza ancora di più. Allora li pia e li mette nel forno, che hai visto mai? Aveva pure svoltata la cena per la vecchia. ma invece i micetti se sarveno. E poi arrivano a aiutarli tutta una serie di bestie parlanti, i cani, i cavalli, i sorci, e oghe, i bagarozzi, tutti gli animali dentro a sta casa, perché si vede che si era sparsa la voce che c'è stava una vecchia che invece di salvare gli esseri umani gli faceva avesse la casa come una stalla. Allora il maggiordomio se pensa, è proprio un paese de merda questo, che la pensione ce l'hanno i gatti e uno che ha lavorato per 40 anni gli danno un carcio in culo. Mi zio c'ha avuto un'avventura con un micetto e ci ha fatto pure un film, Arosto Gatto. Questo invece è un film sempre della Disney, ma che ha traumatizzato intere... Bambi sì. Chi è che ha detto Bambi no? Ecco. Bambi. Che infatti Bambi è una specie di cervetto raccomandato, che infatti siccome il padre se la comanna, allora lui si pensa ad essere protagonistico di questa storia. E allora infatti un giorno Bambi va in giro per la foresta con la madre, che gli dice: «A Bambi, ricordate quello che te dico, l'uomo, se sa, è cacciatore. E io non lo so perché, ma mi sento come che stasera vado a dormire nel freezer». Allora alla mamma de Bambi la fanno cabrio e lui si dispiace, ma manco tanto, che infatti si ingrifa de una cervetta e c'hanno tutte delle avventure, ma però un giorno terribile arrivano i cacciatori che se li vanno fa alla brace. Ma Bambi è talmente ingrifato dalla cervetta che la salva a lei e a tutta la foresta. E alla fine di questa avventura è incredibile che l'amore ha trionfato, la cervetta fa un fio e Bambi è felice e la cervetta gli dice: «A Bambi, sei diventato un adulto, c'hai un fio, ma soprattutto facce caso, c'hai un bel paro de corna». Poi un giorno per caso Bambi rincontra la madre e gli dice: «Amà, in mezzo a tutta sta polenta non t'avevo riconosciuto». Ah, è vero, è così. La Disney l'ha tagliata, ma era così. Oh, invece adesso è una cosa che devo fare di servizio praticamente. Allora, c'è un mio amico, si chiama Gianni, che fa il sindaco a Roma da qualche anno. Vabbè, lo fa. Adesso fate la polemica. Fatemi dire. Mi ha detto: «No, perché adesso dicono sta cosa che Roma è uno schifo, che Roma è pericolosa, che Roma è una città...» E non è vero, no? Lo sapete tutti, insomma, no? Non succede niente, è tutto tranquillo, no? E insomma mi ha detto, esatto, fai un vademecum per il turista che viene a visitare Roma, dei consigli. In modo che insomma non arrivano qua senza allarmarsi, però insomma sanno cosa fare. Scrivi dei punti, dei consigli, e so che tu lo puoi fare. Io ho detto: «Grazie Gianni». E ho scritto questi consigli per il turista a Roma. Se prendete un taxi, informatevi prima del cambio euro normale, euro tassinaro. De solito un euro tassinaro vale 10 euro normali. Se salite su un autobus per non sembrare turisti, toccate il culo a tutti, vi confonderete nella folla. Evitate in qualsiasi modo di uscire dall'albergo. Non attraversate mai sue strisce pedonali, sarebbe una grandissima provocazione per gli automobilisti. Quando che vi stuprano, non urlate, vi stanno a violentà, potrebbero rispondere: «Beata te». Quando ve sparano per strada, evitate di accasciarvi le strisce blu senza aver pagato prima il ticket. Non lasciate mai dopo le due del pomeriggio l'albergo. Al corpo del cannone del Gianicolo, a mezzogiorno, rispondete sempre con la raffica de mitra. Porta bene. Se ve sgozzano, nascondete il sangue, attire macellai. Se povo dovete uscire di sera, portatevi di razzi per l'illuminazione. Evitate Piazza Venezia, se c'entrate non uscite più. In macchina non aprite mai il finestrino e non vi fermate mai per nessun motivo. Quando al ristorante vi porta nel conto, sparate al cameriere, così per sicurezza. Non toccate mai per nessun motivo i cadaveri per strada, so delle esche. Non aiutate mai a attraversare i vecchi, ve scippeno. State sempre al largo dall'asili nido, che oltre a essere rari, son covo de baby gang. Quando che entrate in una chiesa, state sempre che spalle al muro. Se cascate nel Tevere, niente paura, sempre meglio che le strade. Se visitate il Quirinale, diffidate di corazzieri, so dei trans che cercano di adescave. Nella valigia, per sicurezza, mettete pure dei sacchi di sabbia. State lontani dai monumenti, caschino. Quando andate al ristorante, fatevi sempre da prima l'antidoto. Se morite, fate finta di niente. Avvicinatevi a un bancomat solo se avete l'esplosivo. Evitate di fare le gote al museo, so bersagli perfetti per i cecchini. Se volete mangiare una gallarosta, per strada, contattate prima la vostra banca. Non apparite mai come forestieri, cominciate sempre le frasi con mortacci tua. Sì per caso, e sì per caso, vedete un sorcio per strada, salutatelo, che potrebbe da essere il sindaco. Grazie, a dopo. No, solo per spiegarvi alcuni film che breve, molto brevemente. Inception. Martiguti che infatti mandastei ditti mani che i passi per disconi, che allora partemani che infatti caminei fontanini per zindalli costasti de fugli tigre d'ario mannastare per nori che le bremone d'estate d'ortori che infatti poi fa fantite. Allora poi sintiri desteri fartendeli i pormelleteli farmagosti malo penipi turisti ingestereste che infatti allora poi si... non si capisce in cazzo. Memento. Che stavamo a di? Come cazzo? Memento. Memento finché parla. Aspetta, c'era pure. Ma metto finché parla di uno. Come cazzo? Ma metto che infatti, ma metto finché parla di uno che poi lui. Aspetta. Che lui corre. Lui corre. Che. Ma metto poi lui se scrive tutto. Cioè tutte le cose. Se poi hai, se le appuntano. Porca mignotta, il latte sul fuoco. Allora, siccome ho sentito qualcuno che diceva cose tipo roscio, qualcosa del genere, io vorrei chiamare un vero roscio qui sul palco a leggere una recensione. Elio, ci sei? E questa è una cosa che insomma non tutti sanno, ma Elio Germano è roscio.